erano magnifiche. Io ho sempre avuto un quoziente di intelligente leggermente superiore alla media, diciamo. Ora, così adesso sono anche a modestia non stiamo messi male, eh? Ci dice cuore denari in brasiliano, in brasileiro? Coração e dinheiro. Bellissimo. Libero di nome di fatto? Sì. No, libero di nome, di fatto sono coniugato. Claudio, vada, veloce. Sì, buongiorno. Allora, sono contento di aver superato la barriera rosa. La vostra radio è formidabile, si riesce a parlare. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Deborah, e se ti abbandonasse di punto in bianco, tu che non ne puoi fare a meno come me d'altronde. Ma ti riferisci a qualcosa o a qualcuno? Al cellulare. Meno male che non è successo a te, cara Deborah, perché in queste feste invece è successo a tanti di essere piantati in asso. Sì, e non da fidanzato. Pensate in quale situazione si sono venuti a trovare il 30 dicembre dello scorso anno, quindi pochi giorni fa, i 220.000 utenti del gruppo telefonico Bipmobile o Bip Mobile, chiamatelo come volete, che a partire da quel giorno zac ha interrotto le comunicazioni. E più che la festa di Capodanno, è stato proprio, Nicoletta, un pesce d'aprile. E chissà se ci siete anche voi all'ascolto fra questi. 800 24 00 24, se il vostro telefono funziona potete chiamarci subito per raccontarcelo, oppure fatevi imprestare il telefono da un vostro amico, da un vostro collega. Ma Deborah, non è solo il cellulare a piantarci in asso. A ben vedere questo è il minore dei mali, cara Nicoletta mia. Sì, è vero, e fanno più male gli abbandoni di cuori, di stacchi, gli addii sono sempre dolorosi, ma a volte, si dice così, aiutano a crescere. Ne parleremo oggi. Chiamateci, scriveteci per raccontare un distacco, non solo in una storia d'amore, ma anche in un'amicizia, in una collaborazione lavorativa. 349-238-6666, scriveteci qui o anche su Facebook e Twitter fin da subito e raccontateci qual è la frase più strana, il modo o la scusa più assurda con cui siete stati lasciati o avete lasciato. Potrei aprire una conferenza stampa qua, ma ne cito solo alcuni di questi grandi classici dell'abbandono. Ti lascio perché ti amo troppo, ti lascio perché non ti merito, ma noi non lasciamo. Che facciamo? Partiamo. Salva Danaio. Piange il telefono perché lei non verrà, anche se grido ti amo. Eh sì, piange il telefono, e ha pianto il 30 dicembre scorso per 220.000 utenti della compagnia Bipmobile che non hanno potuto fare gli auguri di buon anno ai loro amici e parenti perché si sono visti bloccare così improvvisamente il servizio di punto in bianco. Doveva fare la concorrenza ai big della telefonia mobile, quindi a Vodafone, TIM, Wind 3, e insomma come le compagnie aeree, con una compagnia telefonica pensata per essere low cost, ed erano già in tanti ad essersi affidati a questo tipo di servizio. Pensate che nel giro di 6 mesi questa compagnia voleva rastrellare sul mercato almeno 1 milione di nuovi abbonati. Invece piccola ma agguerrita, dentro la botte c'è sempre il, come si dice, il vino buono. Eccomi qua. E invece l'avventura di Bipmobile potrebbe presto avviarsi ad una triste conseguenza, ad un triste epilogo. La società è in liquidazione, non si possono né effettuare né ricevere telefonate, anche il sito internet, se andate a controllare, dell'operatore è congelato. Oggi a Cuore Denari cerchiamo, come abbiamo fatto ieri, di vederci più chiaro, e intanto vi chiediamo di contattarci all'800 24 00 24 se siete tra questi 220.000 malcapitati. Diteci cosa è successo al vostro telefono, che disagi vi ha portato questa situazione improvvisa, quanto credito avevate già caricato e non avete potuto utilizzare, e soprattutto fateci le vostre domande anche se non eravate clienti Bip ma siete incuriositi dalla possibilità di passare ad una piccola compagnia telefonica mobile, perché ce ne sono altre sul mercato. Ci si può affidare? Come ci si comporta in una situazione come questa? Gli altri modi per chiamarci, naturalmente, Nicoletta? Naturalmente potete scriverci al 349-238-6666 oppure seguirci su Facebook e su Twitter. Allora, presentiamo subito i nostri primi due ospiti, l'avvocato Francesco Luongo, responsabile del settore telecomunicazioni del Movimento Difesa del Cittadino. Buongiorno avvocato e bentornato. Buongiorno a voi. E buongiorno e benvenuto anche all'ingegner Vincenzo Lobianco, direttore della Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica della GCOM, l'autorità garante delle comunicazioni che in questo periodo ha questo dossier sul proprio tavolo. Coinvolta. Esatto. E ieri tra l'altro si è svolto proprio un incontro sulla vicenda appunto di questa compagnia. Prima di tutto però noi la vorremmo ricostruire a beneficio degli ascoltatori che non la conoscono. E ci aiuta in questa ricostruzione l'avvocato Luongo. Cosa è successo a Bip Mobile? Intanto lei lo chiama così, avvocato, o è Bip Mobile all'inglese? Ma come preferite. È purtroppo non cambia la sostanza dell'esito della vicenda, insomma. La seconda società, Doppio Telia, che pianta in asso gli utenti. Un brutto colpo per il mercato del cosiddetto low cost telefonico che aveva Bip Mobile inaugurato, ma che a causa di alcuni debiti che aveva con la società Enabler, che è la società Telogic, ovvero la società che cura l'istradamento e i servizi che permettono a questo operatore cosiddetto virtuale di far comunicare i propri clienti attraverso, ricordiamolo, un operatore effettivo che è H3G, questo debito ha fatto sì che con una serie di passaggi mediati purtroppo vanamente dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la società Telogic ha di fatto staccato le comunicazioni ai clienti dei Bip Mobile, questi 220.000 clienti, dopo una serie di richieste di pagamento. Esatto. È una storia che però non comincia a gennaio, comincia per i malcapitati utenti a gennaio, ma in realtà sta andando avanti dallo scorso anno, come dimostra. No, tra l'altro l'anno di operatività della compagnia, avvocato Luongo, perché non è che avesse come dire una storia industriale molto più lunga, no? Questi sono sul mercato dal 2012, credo. Sì, sono sul mercato dal 2012 e come è chiarito nella delibera 549 del 2013 dell'autorità per le comunicazioni, la loro storia è stata fatta di una forte ascesa sul mercato, ma purtroppo si sta concludendo malamente, così come quella dell'Enabler, con una richiesta di concordato avanzata al Tribunale di Roma e che dobbiamo tenere presente nel corso della discussione di oggi. Esatto, lo faremo. Tra l'altro, avvocato Luongo, secondo lei c'erano i presupposti affinché la compagnia avvisasse per tempo gli abbonati che qualcosa non stesse andando e che comunque di lì a poco, magari a dicembre, i servizi sarebbero stati interrotti? Premesso che ci dispiace per Bip Mobile e per i lavoratori di Bip Mobile, voglio, oltre che per gli utenti naturalmente, soprattutto per gli utenti, voglio ricordare che c'è un preciso obbligo da parte, sancito dal codice delle comunicazioni elettroniche e da alcune delibere dell'autorità per le garanzie delle comunicazioni, di informare non solo di eventuali interruzioni temporanee del servizio, ma anche dell'eventuale cessazione dell'attività, cioè se Bip Mobile o qualsiasi altro operatore ritiene che non sussistano i presupposti per proseguire la propria attività, deve informare obbligatoriamente gli utenti. E questo è un aspetto che sta valutando e dovrà valutare l'autorità delle comunicazioni, che credo sentiremo a breve. Esattamente. Sente come fa il conduttore, anche l'avvocato perfetto. Luongo. Esatto. No, lo sentiremo senz'altro, ci faremo raccontare come è andato l'incontro previsto per ieri, perché il tema importante è che, a prescindere da come sono andate le cose, in realtà gli utenti avrebbero dovuto avere l'opportunità e un po' di tempo per poter passare ad un altro operatore. Certo. Quindi questa compagnia fra 20 giorni interrompe i servizi, muoviti, datemi, fai qualcosa da fare. E invece così non è stato. E noi invece ci diamo da fare, perché sì, sentiamo subito la voce di Massimo, che ci chiama da Roma all'800240024. Buongiorno Massimo. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Sì. Guardi, io sono amareggiatissimo, non aspettavo questo trattamento. Sì. Non so che dite, io ho avuto un danno economico e morale, ma più che altro morale, perché il 30 dicembre mi interrompono i servizi telefonici, non capisco perché. Questo sì, è veramente, guardi, oggi sono passato alla 3, proprio oggi, perché ero proprio ovviamente, ormai non ce la facevo più a tenere, perché è stato detto, voglio rimanere. No, tra l'altro abbiamo capito, ma è stato molto complicato fare questo passaggio, questa portabilità, Massimo, perché no, questo è che ti interessa. No, è complicatissimo, ecco, perché numero, la portabilità del numero è importante, quello, perché mi dicono quelli della tre che il numero ci vuole molto molto tempo. Ecco, infatti il punto è questo. Insomma, è complicato, ma volevo chiedere a Massimo, da donna di cuore, lei è più arrabbiato e più deluso di fronte a queste incidenti, poi si prende sempre con qualcun altro, ma poi si fa un po' un mea culpa e si dice: ma come ho fatto a essere così imprudente? Massimo, si fa qualche colpa? Cioè, dice: sì, però anch'io ho sbagliato, avrei dovuto, avrei potuto, come ho fatto a non pensarci? No, ma nessuna colpa. Io mi debito uno dei 220.000 polli che abbiamo abboccato solo così, perché questo è il paese dei reati impuniti. Punto, perché questo è un reato per me. Senta, perché ha scelto di passare a Trenitalia e non ha scelto un'altra compagnia? Per la relazione già economico-commerciale che c'era con BIP, e quindi lei ha pensato che magari il passaggio, la portabilità potesse essere più facile? No, mi è stato consigliato dal venditore della telefonia. Quindi... Esatto, anche questo. Poi un pochino ha fatto una tariffa molto molto abbordabile, cosa che mi fa pensare che questi vogliono fare uno sgambetto a questi, a questi BIP Mobile, che visto che è stato il primo operatore virtuale che ha dato una spallata forte a far abbassare le tariffe in Italia. E allora lanciamo questo sospetto, che chiaramente non abbiamo ragioni per suffragare, però insomma un po' viene, Nicoletta, no? Chiediamo al nostro avvocato cosa ne pensa. Avvocato Longo, poi andiamo alla Gcom, che così sta mettendo qualche appunto ulteriore sul suo piccolo dossier, l'ingegner Lo Bianco, per rispondere a tutto. Francesco Longo, lei che ne pensa? Penso che si è trattata della prima società low cost in Italia, è stato un esperimento. Il problema è che, come si evince dagli atti dell'autorità, tutta questa situazione è molto ingarbugliata, perché ci sono una serie di problemi che hanno di crediti, somme non pagate, c'è tutta una problematica che l'autorità ha il dovere di approfondire per bene, affinché sia garantito agli utenti molto semplicemente la portabilità del numero subito, e su questo si sta lavorando, il rimborso del credito residuo, anche questo è fondamentale, il pagamento degli indennizi per la sospensione della linea, dopodiché all'esito dell'indagine che deve fare l'autorità per capire chi è il colpevole vero o chi sono i colpevoli veri in questa vicenda, le associazioni dei consumatori e gli utenti potranno attivare eventualmente una class action. Naturalmente però tutto questo non può prescindere da un'indagine che l'autorità starà facendo, riteniamo, per capire perché dopo tanti mesi, come dimostrano gli atti dell'autorità, si è arrivati al 1 gennaio a trovarci in un paese come l'Italia, sicuramente avanzato, 220.000 utenti senza più la linea telefonica, quindi non soltanto senza la possibilità di fare gli auguri, ultima cosa, ma anche in questi giorni senza la possibilità di lavorare, come anche su alcuni gruppi Facebook si sta protestando molto in questi giorni. Quindi è un bel danno. Un bel danno. Ingegner Lo Bianco, ha sentito quello che abbiamo detto fino a questo momento? Il Sole 24 Ore sul sito questa mattina, in un pezzo del collega Andrea Biondi, titola: quel pasticciaccio brutto di BIP Mobile e dei 220.000 clienti con il telefono muto. Agcom in campo, come? Intanto, che avete incontrato ieri, quali punti avete toccato e soprattutto è possibile velocizzare le procedure di portabilità di questi 220.000 sfortunati abbonati alla compagnia? Ingegner Lo Bianco. Buongiorno innanzitutto. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Siamo anche ancora in a tempo a dire a buon anno. Allora, l'autorità è già intervenuta, come ricordava l'avvocato Luongo, è già intervenuta da luglio su questa vicenda piuttosto ingarbugliata, sono d'accordo con lui, e ieri abbiamo di nuovo incontrato le società coinvolte, in particolare BIP, Telogic ed H3G, per fare il punto della situazione e valutare le immediate misure da intraprendere per arrivare, se possibile, alla riattivazione dei servizi da parte di BIP Mobile. Lo ritiene possibile, tra l'altro? Ma guardi, la situazione è piuttosto ingarbugliata, come avete già detto le due società sono in liquidazione, quindi ci sono problemi anche di natura civilistica circa l'esigibilità dei crediti e la possibilità di pagare i fornitori, quindi sono questioni che deve risolvere il giudice civile, ma evidentemente l'impressione che abbiamo avuto è che la stessa BIP Mobile non voglia lasciare nulla di tentato per poter riavviare i servizi, ovviamente fornendo delle adeguate garanzie a Telogi, la quale a sua volta si è dimostrata disponibile, penso anche grazie al, diciamo, all'attività di moral suasion che sta facendo l'autorità, a ricontattare, a rinegoziare un nuovo contratto e poter riattivare i servizi. Se ci si riuscirà non si sa, insomma, francamente abbiamo dato tempo fino a mezzogiorno per avere queste informazioni. Ah, c'è anche una deadline, quindi sì, entro mezzogiorno? Abbiamo dato mezzogiorno perché si aspettava una decisione del giudice civile sullo sblocco di alcuni crediti che avrebbero forse eventualmente nel caso permesso di riavviare il contratto. Però nel frattempo molti utenti hanno preso scelte. Noi non stiamo fermi su questo, ci siamo anche dati da fare per valutare la situazione sotto il profilo della portabilità del numero, cioè sotto il profilo di agevolare tutti quei clienti che non volessero aspettare queste scadenze o l'eventuale riattivazione del servizio per poter cambiare operatore. Ecco, quali agevolazioni avete dato? Perché ha sentito l'ascoltatore di prima. Abbiamo valutato la situazione in termini di arretrato di coda e quindi stiamo ragionando e lo completeremo il ragionamento sulla base anche delle informazioni che ci daranno sempre entro mezzogiorno, stiamo ragionando su un possibile incremento di numero di portabilità che deve essere obbligatoriamente fatto in una giornata, incremento passando da quelle 500 che girano sulla rete, che erano ovviamente previste in una situazione ordinaria e che erano assolutamente adeguate in una situazione ordinaria, a un incremento anche di 10 volte come minimo per far fronte a una situazione straordinaria, in maniera che gli utenti possano passare ad un altro operatore più velocemente possibile e, mi lasci dire, in maniera comunque semplice, come è sempre stato. Certo. Devo fare un piccolo spot nei confronti delle autorità. Siamo il paese in Europa in cui la portabilità funziona meglio, si ottiene con procedure molto semplici in un tempo ristretto. Ovviamente questo vale in situazione ordinaria. No, io non ho nessun motivo di dubitare di quello che ci dice, perché voi avete le statistiche di un andamento di un mercato molto popolato, però a noi arrivano solamente dalle mail che ci arrivano è un po' differente. Detto questo, è anche vero che questa disavventura è capitata tra Capodanno e l'Epifania, Nicolette, un periodo di festa, questo ha sicuramente contribuito a peggiorare le cose. Chissà se un fidanzato ci lascia durante le feste, se la cosa è peggiore o meno. Durante le feste è brutta, è sempre brutto quando qualcuno ci lascia, ma noi impareremo oggi con la nostra esperta a vedere il distacco da un altro punto di vista. Guarda, mi dispiace, ma no. Ti spiace? Anche a me. Sì, anche a me. Sempre anche a me. Sei mai riuscito una volta a dirmi una cosa di tua iniziativa? Mi dispiace, anche a me. Ti amo, anch'io. Sei mai riuscito a dirmi una cosa, che ne so, che belle gambe che hai, per esempio, così, di tua iniziativa? Mai. Così non sto bene, Vincenzo. Sto male, io non mi sento amata, non mi sento desiderata, non mi sento niente. Io ti devo lasciare. A lasciare, a piantare in asso e a lasciare senza parole non sono solo le compagnie telefoniche. Ogni abbandono, ogni fine, ogni interruzione, ogni distacco, che sia da una persona, da un oggetto, da un luogo, da una situazione, comporta disagio, senso di vuoto, inquietudine, impotenza, rabbia, dolore. Non a caso, se vi ricordate, ne abbiamo parlato più volte, divorzio, licenziamento e trasloco sono tra le prime cause di stress e di nevrosi. Fa male essere lasciati, ci stanno arrivando anche molti messaggi al 349-238-6666, alcuni anche su Twitter. Ci scrive Susanna da Roma: per me l'abbandono più grande è stato quello dei miei figli, che hanno preferito stare col padre all'estero e in Italia che con me qui a Roma. Mi sento molto triste, senza sicurezza affettive ed economiche. Ci scrive Susanna, 45 anni, da Roma. Ma è vero che fa male anche lasciare, perché si è prese da una sorta di senso di colpa, si ha paura di far soffrire l'altro. Quindi tutto sommato meglio che a lasciarci sia una compagnia telefonica, lo dico io da donna di cuore. Ma in linea con noi ho il piacere di avere la dottoressa Gianna Schelotto, scrittrice, psicologa e psicoterapeuta della coppia. Dottoressa Schelotto, buongiorno. Buongiorno a tutti voi e buon anno. Buon anno. Dottoressa, nessuno può fornire ricette per non soffrire dai distacchi, ma come ha scritto lei in un suo articolo, capire e accettare che si vive e si cresce solo attraverso piccole o grandi separazioni è un modo, e lei sottolinea il solo, per governare la barca. Quindi a chi si sta rodendo dalla rabbia per essere stato abbandonato dalla compagnia telefonica, i consigli dell'avvocato Francesco Luongo, ma per chi invece sta vivendo o ha vissuto e provato il dolore di lasciare, di essere lasciato, ci affideremo a lei. E quindi invito già da ora i nostri ascoltatori a chiamarci, a metterci in contatto e a mettersi in contatto con noi. Dottoressa Schelotto. Sì, e voglio dire, un imbroglio o una delusione come quella inferta da una compagnia telefonica di per sé crea frustrazione, crea rabbia, però noi ci dobbiamo domandare se quella frustrazione e quella rabbia sono legate specificamente a quell'episodio grave ma comunque banale, o se non ha suscitato in noi la presenza di antichi fantasmi, perché tutti noi ci portiamo dentro, più o meno seppellita nell'inconscio, l'angoscia di essere lasciati, di essere abbandonati o comunque di perdere i riferimenti affettivi più importanti della nostra vita. Ci scrive Marco su Twitter: mai stato lasciato perché il mio amore è stato ed è unico, fortunato. Gabriele invece su Twitter sempre ci scrive: lasciato da un mio vecchio datore di lavoro vendendo il mio camion. Allora, se volete parlare con noi di distacchi e altri addii, che è anche il titolo di un libro bellissimo che vi consiglio di Gianna Schelotto, iniziate a chiamarci. La dottoressa Schelotto guiderà le nostre riflessioni a voce alta a partire dalle 11:45, e intanto voi continuate a scriverci le frasi, le situazioni, i modi più strani, le scuse che avete detto, che vi sono state dette per finire una relazione, che sia una relazione di amicizia. A volte le amicizie finiscono nel silenzio più assoluto, non ci si sente più, A volte invece finiscono gli amori con un sms, una mail, ma di tutto questo parleremo. Dottoressa Schelotto, noi adesso ci lasciamo, ma poi ci ritroviamo. È un abbandono solo temporaneo. Non sarà un distacco definitivo. Mi piace. Grazie, dottoressa Schelotto. Grazie, a tra poco. E noi torniamo ai disagi dei clienti di Bipmobile. Nicoletta sta monitorando Twitter, io invece Facebook, da questa parte del nostro tavolo di conduzione. Non vi dico in quanti ci state scrivendo. D'altronde c'è anche un gruppo Facebook che si è formato. Chiaramente ormai i social network si usano moltissimo. E abbiamo anche Maura che ci chiama dalla provincia allora, di Milano. Allora, facciamo una cosa. Sentiamola subito e così poi le rispondiamo insieme all'avvocato Luongo e alla Gcom. Non è che devo fare già i mercati, perché lo sai che io da qua non vedo l'orario. No sentiamola, sì, e rispondiamo dopo. Maura. Buongiorno. Maura, ci saluti prima dei mercati, che così poi Deborina passa ai mercati e poi noi ci occupiamo di lei. Ecco. Le piace? Sì. Maura, ma li faccio brevissimi, così almeno veniamo subito a Roma. Va bene. A tra poco. Cuore e denari. È arrivata Bipmobile, la compagnia telefonica low cost. Be smart. Be Bip. Eccoli qua, avevano uno spot pubblicitario assolutamente divertente, accattivante, anche credo con l'obiettivo di trovare dei testimonial un po' costosi, forse Belen Rodriguez, non lo so, ma infatti tutto questo è andato proprio bene, perché Bipmobile ha smesso di correre e ha fatto un brutto scherzo a tutti i suoi utenti, 220.000 abbonati. Naturalmente, appunto, stiamo parlando di questa compagnia telefonica, un operatore low cost virtuale in liquidazione che ha smesso di funzionare il 30 dicembre di colpo. Ora, le principali preoccupazioni sono recuperare la portabilità del numero e anche il giusto indennizzo oltre al credito residuo, Nicoletta, perché quindi qua, Deborah, insomma, vuol dire la portabilità, mantenere il proprio numero cambiando operatore, un po' come quando ci lasciamo con un grande amore, noi cambiamo partner ma siamo sempre noi stessi. Se la dottoressa Schelotto sentisse questa tua interpretazione, ma io sono sicura che l'avrà sentito, poi magari la ribadiamo e la commenterà senz'altro. Come si fa? Allora, stiamo dando le nostre indicazioni agli ascoltatori con l'avvocato Antonio Longo del Movimento Difesa del Cittadino e con anche l'autorità garante delle comunicazioni, l'ingegner Vincenzo Lobianco. Ma che dobbiamo mettiamo recuperare a disposizione di Maura, che ci chiama dalla provincia di Milano e non da Roma, Maura, come l'avevo definita prima. Maura? Sì. Eccoci. Buongiorno, sì. Complimenti a tutte e due per la trasmissione. Grazie. Senta, niente, io nel gennaio 2012 ho attivato la Oddio, che c'è il ritorno, ma non ho nessun... Non so. Allora, un abbonamento con la società. Non ho niente di acceso. Vabbè, parti... Niente, ho attivato l'abbonamento con la società. Con la promozione, allora, intanto dovevo acquistare il telefono di Bip e poi potevo caricare di 50, di quanto volevo al mese per avere una ricarica maggiorata di 150 praticamente. Io caricavo 50 e loro mi davano 100. Sì. Ah. Sono arrivata a una ricarica di 486,10 centesimi. Però lei ne ha spesi la metà, Maura. No, io non ho speso niente perché ho un altro cellulare. Questo qui lo tenevo per comunicare con mia mamma. Quindi ho su tutti questi denari praticamente. Adesso il tema è come recuperarli. Allora, avvocato Luongo, lei che cosa suggerisce all'ascoltatrice? Poi sentiremo anche degli altri interventi, perché c'è chi appunto ha questo obiettivo di fare questa azione collettiva, la class action. Ma vale la pena per recuperare 400 euro? Perché per qualcuno in realtà il credito residuo è anche molto inferiore. Avvocato Luongo. Allora, innanzitutto dobbiamo dire una cosa, noi ci troviamo di fronte a una società come Bipmobile che comunque sul proprio sito internet ad oggi comunica la volontà di voler continuare a fare la propria attività. Quindi quello della portabilità al momento è una delle opzioni che possono scegliere gli utenti. Un'altra è l'attesa, dice lei, insomma, vediamo se si muovono un po' le acque. Ecco, se dobbiamo anche... tenerlo presente questo fatto, perché appunto ci fa capire qual è la situazione che stiamo vivendo e che stanno vivendo tutti gli utenti. Dobbiamo quindi dare informazioni e notizie quanto più chiare possibile, e la vostra trasmissione ci aiuta molto questa mattina. La signora, se non vuole attendere l'evolversi degli eventi, premesso che ha assolutamente diritto a vedersi riconoscere questo credito residuo, evidentemente qualora intendesse cambiare operatore, fa la portabilità. Per portabilità cosa intendiamo? Si reca presso un qualsiasi altro operatore mobile, fa la sua domandina per la sottoscrizione del contratto con l'abbonamento, con l'opzione tariffaria che più interessa, e ricordo che nella portabilità è previsto in automatico il passaggio del credito residuo al nuovo operatore, quindi non c'è bisogno di fare domande o richieste a parte di questi soldi che si hanno sulla scheda. Quindi nel caso della portabilità ricordiamo che il credito residuo viene passato in automatico al nuovo operatore. Quindi questo è diciamo che al momento, in attesa che Bip Mobile appunto possa ritornare pienamente operativo, perché noi ce lo auguriamo soprattutto per le persone che lì lavorano anche, naturalmente un'opzione potrebbe essere quella, appunto, partire con la portabilità, aspettare i tempi del caso e il credito residuo si recupera. Questa maniera. Sentirei prima di... una bella notizia per Maura. Quindi. Sì, esatto, può provarci appunto, o aspetta di capire che destino avrà Bip Mobile e l'autorità garante ce lo farà sapere. Ma quando dice il nostro avvocato dice si attende, quanto si Quali può attendere? Quali sono i tempi? Chiediamolo all'ingegner Lo Bianco, perché sulla portabilità sa tutto e i tempi sono fissati proprio dall'autorità, no? Dall'autorità garante delle comunicazioni, ingegnere. Sì, certo, i tempi della portabilità di norma sono di un giorno e mezzo. Ma ovviamente in una situazione straordinaria, in una presenza di dover incrementare i numeri della portabilità vista l'eccezionalità dell'evento, potrebbe esserci qualche giorno di attesa. Noi stiamo valutando la possibilità appunto di incrementare in maniera tale che la maggior parte, buona parte dei clienti, tutti i clienti che decidano di cambiare operatore possano farlo nel giro di pochissimi giorni, tenuto conto che c'è un arretrato da smaltire. Esatto, quindi ricordiamoci che ci sono anche le altre compagnie telefoniche che adesso si sono viste riversare addosso, per loro fortuna, perché non si lamenteranno certo, queste migliaia appunto di utenti incappati in questa disavventura. Un paio di ascoltatori ricordiamo ancora il nostro numero verde 800 24 00 24, per parlare di tutte le volte che, oltre alle compagnie telefoniche, qualcuno ci ha piantato in asso, o a piantare in asso siamo stati noi, quindi distacchi altri AD, citando il titolo del libro di Gianna Schelotto, che sarà ospite di Cuore Denari a partire dalle 11:45. I nostri messaggi al 349-238-6666 e potete seguirci anche su Facebook e su Twitter. Intanto andiamo a proposito di Facebook a Potenza, nella provincia di Potenza, dove c'è Massimiliano, che ha fondato proprio il gruppo su social network in cui tutti questi malcapitati si raccontano come dire sono incappati in questo disservizio di Bip Mobile. Massimiliano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori, ma anche a Deborah, a Nicoletta, all'avvocato Luongo e all'ingegnere Bianco. Vedi Massimiliano com'è carino, vogliamo salutare anche Filippo Aureggi, che se no non lo salutiamo solo noi. Salutiamo anche lui, ecco, nascosto, nascosto dietro la vetrata. Massimiliano, in quanti siete sul social network, in questo profilo che avete costruito proprio per, come dire, condividere un po' questa disavventura tra di voi? Dunque, praticamente abbiamo fondato una sorta di gruppo Facebook sulla scia del disagio che tutti in questi giorni, in questi 9 giorni di blackout viviamo. Abbiamo fondato il gruppo intorno al 30, proprio poche ore dopo lo spacco delle linee, il distacco delle linee. E nel giro di 3 giorni. Quindi voi avete avuto, mi scusi Massimiliano, subito la percezione che fosse una situazione che coinvolgeva molte persone, non, come dire, una disavventura, un piccolo disservizio individuale? Beh, sostanzialmente sì, perché dopo un po' di ore in genere si comprende quando i problemi sono locali, comunque anche sono legati a spazi temporali abbastanza brevi, limitati, è facile intuire che i problemi si possano risolvere nel giro di poche ore. Così non è stato e infatti siamo ora ancora con le linee staccate dopo 9 giorni. Certo, ma oltre a lamentarvi tra di voi e condividere, come dire, fare malcomune mezzo gaudio, Nicoletta sorride perché ridi? Perché mi piace, perché sei tu quando dici, oltre a lamentarsi, cosa state facendo? Cosa state facendo? Perché voi, come dire, porterete avanti un'iniziativa di portabilità collettiva oppure andrete avanti in maniera... Il gruppo è nato in maniera spontanea, senza avere nessun obiettivo preciso. È chiaro che è la prima volta che ci troviamo in una situazione del genere, quindi anche noi stessi non sappiamo come comportarci. Non conoscevamo anche molti meccanismi, così come molti nomi che sono usciti fuori in questa vicenda, per esempio The Logic, non sapevamo il funzionamento con insomma eravate poco informati, Massimiliano. Eravamo dei semplici utenti che di punto in bianco il 30 dicembre dove non solo avviene un cambio dei messaggi. Massimiliano, andiamo alla ciccia, guardi, io capisco quello che vi è successo il 30, avete fondato su cosa farete adesso? Andrete all'azione collettiva? Come intendete rivendicare i vostri diritti? Allora, noi siamo disponibili a, prima di tutto, rivendicare i nostri diritti in ogni sede. Ci sono già delle class action in corso e quindi chiunque liberamente che fa parte del gruppo, che non faccia parte del gruppo, può aderire in primo luogo. In secondo luogo aspettiamo delle risposte ben precise, perché dalla riunione di ieri si sa ben poco, si parla di portabilità. Io ho fatto un semplice conto, con un conto aritmetico, siccome sono ammesse 500 al giorno per quanto riguarda BIM mobile, no, ma l'autorità promette che... 200... però dicevo, facendo il conto su 220.000 utenti, in 440 giorni ci trasferiremmo presso altri gestori, che è assolutamente impensabile. Quindi il nostro disagio è quello di, prima di tutto, riottenere la linea, perché lei pensi che ci sono medici, ci sono persone, si lavora anche col telefono per il lavoro. E quindi avere un numero che ad un tratto non è più funzionante. Ma diciamo che quindi la vostra linea è quella di sbrigarsi con la portabilità, però c'è chi fa altro anche, Nicoletta? Abbiamo in linea con noi Domenico Bacci, che si occupa in modo specifico della class action per il City. Buongiorno. Bacci, buongiorno. Buongiorno. E grazie per la sua disponibilità. Che cos'è il City e come intendete portare avanti questa azione collettiva e soprattutto con che obiettivo di risultato, per rivendicare 40 euro di credito residuo? Adesso io la provoco così, naturalmente. Naturalmente. Allora, il City è il Sindacato Italiano per la Tutela dell'Investimento e del Risparmio, un'associazione fondata nel 94 con oltre 30.000 associati. City si interessa appunto di avviare azioni collettive o, nella fattispecie, class action. Quando siamo stati informati della vicenda che riguardava BIP Mobile, abbiamo ritenuto che fosse opportuno avviare immediatamente una class action. Questa class action è stata sviluppata è stato costituito un comitato che si chiama Comitato BIP Mobile, e questo comitato ha proprio la finalità di portare avanti la class action a favore degli utenti della VIP mobile che sono rimasti senza servizio. Che non credo vogliano solo recuperare il credito residuo, Bacci, ma allora, in qualche maniera essere indennizzati anche del disagio che hanno subito, si sono trovati, no? Allora, esiste una delibera della Zicom che prevede che per ogni giorno di sospensione del servizio che non sia stata opportunamente comunicata, devono essere riconosciuti 10 euro all'utente con un minimo di 100 euro complessivi. Ecco, per fare questa richiesta bisognerebbe che tutti gli utenti della VIP mobile cominciassero a fare una richiesta al Corecom regionale. Ecco. Nel momento in cui il Corecom regionale fa il tentativo di conciliazione e la controparte non dovesse rispondere opportunamente, ecco che può partire la class action e questo è il motivo per cui noi stiamo raccogliendo le adesioni che sono già molto. Dove le raccogliete? Che così almeno gli ascoltatori che vogliono aderire possono farlo? Le raccogliamo attraverso il nostro sito che è www.sindacatociti.it oppure il sito del comitato. Il sito del comitato è www.comitatobipmobile.com. Solo un'ultima cosa, Bacci, poi dobbiamo salutarla. Non le sembra di essere partito un po' presto con questa idea di azione collettiva? Perché se, come ci ha detto anche l'ingegner Lo Bianco, magari Bipmobile, non so se sarà probabile, riprende la sua operatività e, come dire, ripristina un po' la sua situazione e gli utenti ritornano nel pieno possesso della loro linea telefonica. Non è un po' presto? Al contrario, bisogna muoversi e muoversi anche molto rapidamente. Le devo dire che peraltro sussistono anche dei dubbi che noi stiamo verificando relativamente ai soggetti che stanno intervenendo in questa vicenda. Ad esempio si parla della dualità fra Bipmobile e Telogic, che sarebbe il cosiddetto enabler. Sì. Dalle verifiche che stiamo facendo sembrerebbe apparire che in realtà tutti questi soggetti fanno capo a un unico soggetto, il che ci mette di fronte a parecchi dubbi su questa, anche su questa dualità. Asserita. Una situazione un po' di conflitto di interessi che va chiarita. Allora, grazie a Domenico Bacci. Se vuole magari mandarci una mail, Bacci, con tutta la procedura che ci ha indicato prima, la mettiamo su Facebook per gli ascoltatori che vogliono saperne qualcosa di più. Mi sembra un'ottima idea. Grazie. Bacci, grazie molte. Grazie. Ci ritorneremo magari fra qualche settimana su questo caso. Sicuramente. Benissimo. Andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. Ci accompagnano ancora l'avvocato Vincenzo Francesco Luongo e Vincenzo Lo Bianco. Esatto, perché tra l'altro se l'ingegner Lo Bianco entro mezzogiorno sa qualche notizia in più, ce deve la facciamo dircela. Dare in diretta assolutamente. Cuore e denari. E torniamo ad occuparci di distacchi e altri addii, il titolo di un libro della dottoressa Gianna Schelotto che è in linea con noi. Dottoressa Schelotto? Eccomi. Ecco, ci siamo ricongiunte, ci siamo lasciate temporaneamente. È stato un distacco non doloroso. Non doloroso. Dottoressa Schelotto, i distacchi sono dolorosi, la fine di un amore ci fa perdere, lo sappiamo tutti perché insomma sarà capitato a tutti di vivere la fine di un amore, ci siamo sentiti più insicuri, abbiamo perso un po' anche la fiducia in noi stessi perché il distacco ci fa perdere anche una parte di noi importante. Purtroppo non ci sono ricette, dottoressa, per evitare la sofferenza dei cuori infranti, ma la storia insegna che certe, mettiamolo tra virgolette, tempeste emotive possono rivelarsi dolorosamente proficue, ma perché questo accada occorre evitare passi falsi. Dottoressa. Sì, nel senso che sappiamo che il distacco è una ferita terribile che muove una enorme massa di sofferenza. Quello che si deve fare, non dico assecondare il dolore, ma cercare di non fare, come dire, di non cercare di tenere a tutti i costi legato chi legato non vuole restare. Cioè il pericolo che si corre quando si perde un amore è quello di continuare a indagare sulla vita dell'altro, a cercare informazioni, gli amici informati che ci dicono dove è andato, cosa ha fatto, come era vestito, chi ha visto, perché in realtà quando noi perdiamo una persona cara, perdiamo anche una parte importante della nostra quotidianità. Cioè eravamo abituati a sapere come si vestiva, dove andava, chi vedeva, quali erano i suoi gusti, i film che gli piaceva. E non è che si perda soltanto la persona amata, ma si perde tutto questo, e questo si fa più fatica a lasciarla andare, cioè come bisogna tagliare nettamente certe cose proprio per non infliggersi una sofferenza che apparentemente sembra minore perché sono piccole gocce, ma che in realtà non ci aiuta a guarire. Essere e benessere. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient. Ti commuovere? Sì, è perché a distanza di anni Jacques Brel scrisse questa canzone nel 58, quindi facciamo i conti. Sì. Ne me quitte pas è una canzone sempre attuale, perché da quando mondo è mondo ogni innamorato ha paura di essere lasciato, dottoressa Schelotto. Non sono nei ma questa paura dell'abbandono, il distacco doloroso lo avvertiamo non solamente nei confronti delle persone che amiamo, ma anche dei nostri amici. Noi viviamo sempre di piccoli o grandi distacchi, è doloroso distaccarsi dalle persone naturalmente, dai riferimenti affettivi importanti, ma è doloroso anche distaccare, infatti lo dicevi prima Nico, che un trasloco può essere una vero. Sofferenza, sì. Che abbiamo anche gli attaccamenti agli oggetti perché diventano simbolo di qualcosa che ci rassicura, che rinforza la nostra identità, quindi i distacchi sono al tempo stesso dolorosi, ma dobbiamo ricordare che sono anche nuove opportunità che ci vengono offerte. Voglio leggerle un messaggio che arriva da France, sì. Così si scrive, si firma e ci scrive: a parole siete brave, il problema è che si viene travolti dal dolore, la testa parte per conto suo. Ecco, in questo SMS c'è il dolore che paralizza e che è tipico, no? È fisiologico, dottoressa Schelotto. Certo, voglio dire, noi stiamo parlando di un lutto sostanzialmente, e i lutti nella prima fase ci fanno sentire immersi come una caduta in un vortice del quale non vediamo appigli, e questa è la parte iniziale del lutto. Poi naturalmente la vita riprende il sopravvento, e questo è lì che dobbiamo stare attenti a non affezionarci al dolore, perché qualche volta succede che il restare chiusi in questa nuvola nera del dolore per certi versi ci fa sentire quasi più sicuri e ci fa perdere la voglia di aprire questo buio e di cercare di nuovo la luce. Questo è, come dire, il passaggio più difficile, però così come noi sappiamo tutti, conosciamo tutti i dolori del distacco, tutti abbiamo anche l'esperienza di averli superati, e quindi la certezza che i distacchi si superano anche cercando di dimenticare l'altro, ma di ricordare se stessi. Quindi, come dire, il motto potrebbe essere: sia pure nel lutto, sia pure nel dolore, non ti scordare di te. Cioè, tieni presente che tu sei una persona viva e che la vita ti offrirà mille altre opportunità. Bisogna un po' riprendersi la vita. 800 24 00 24, vi abbiamo chiesto di raccontarci se siete stati piantati in asso, come è capitato, quali parole sono state utilizzate, se avete piantato a vostra volta qualcuno, se vi siete sentiti in colpa, avete magari rimandato un po' il momento. Oggi anche il caso di dire che mezzo è stato utilizzato per, come dire, lasciare una persona, perché gli attori, gli artisti ce ne raccontano veramente di tutti i colori. Daniel Day-Lewis, sì, che cosa ha combinato? Che andiamo a sentire. Daniel Day-Lewis ha lasciato la bella moglie Isabella Gianni con un fax, sembra un dilettante. Gli innamorati di oggi infatti si dicono addio con un SMS o sui social. Ad esempio, la cantante Britney Spears pare abbia messo fine al suo matrimonio con Kevin Federline mandandogli un SMS mentre rilasciava un'intervista in TV. Oppure l'attrice Jennifer Aniston ha inviato un SMS al suo fidanzato dicendo: adesso basta, è finita. Dall'SMS a Facebook il passo è breve. Proprio sul profilo di Marco Bocci è stata ufficializzata la fine della sua storia con Emma Marrone. Non ci si dice nemmeno ciao, dottoressa Schelotto. Sì, voglio dire, i telefonini hanno assunto un ruolo importantissimo nella vita affettiva, nella vita amorosa delle persone, perché spesso i tradimenti sono scoperti attraverso i telefonini e spesso il telefonino serve a chiudere una storia quando non si ha il coraggio di affrontare una situazione in maniera diretta. Chi lascia con un SMS, voglio dire, chi riesce a chiudere una parentesi della sua vita con un gesto così, come dire, così freddo, così distaccato, ma sicuramente non brilla di coraggio, ma certamente è uno che non vuole essere interrogato, non vuole dare spiegazioni, ma perché lui stesso non vuole interrogarsi. Voglio dire, è più facile chiudersi una porta alle spalle e andare fuori piuttosto che vedere che cosa ci poteva essere dietro quella porta che non andava bene o che si poteva in qualche modo chiarire. Non è detto che gli amori debbano durare per sempre necessariamente, però ogni volta che si chiude una porta conviene essere sicuri di quello che ci si lascia alle spalle, e un SMS ci lascia sempre, come dire, un pezzo di buio dentro, qualcosa che non abbiamo chiarito all'altro ma che non abbiamo il coraggio di chiarire nemmeno a noi stessi. Dottoressa Schelotto, il distacco sembra arriva sempre come un fulmine a ciel sereno, sembra sempre improvviso, come è capitato con la compagnia telefonica Bip Mobile, ma a volte come tali vogliamo viverli, perché forse c'erano delle avvisaglie ma abbiamo preferito non vederle. Parlo di storie d'amore ma anche parlo di amicizie, ci sono amici che poi improvvisamente non si sentono più senza darsi delle spiegazioni. Dottoressa Schelotto, in fondo è come se noi volessimo in qualche modo non vedere che la situazione sta degenerando, trasformandosi, diventando rischiosa, forse perché non vogliamo occuparcene, non abbiamo il coraggio, abbiamo paura. Soprattutto perché non siamo pronti a ricevere quella verità che voglio dire, succede spessissimo, per esempio nei tradimenti, lo sanno tutti, gli amici, i parenti, i conoscenti, ma l'unico che veramente ignora è il tradito, tanto che si dice che il tradito è sempre l'ultimo a saperlo. Non è che non lo sa perché è stupido, perché è distratto, perché non è pronto a misurarsi con questa grande ferita che può essere il tradimento. Quindi noi qualche volta abbiamo noi stessi in buona fede l'impressione che ci sia arrivata una tegola in testa senza aver mai sospettato nulla prima, ma se andiamo a vedere, sinceramente, a rivedere le cose, ci rendiamo scopriamo conto che dei dettagli, mille segnali. Cuore e denari. Berger ha rotto con me con un post-it. Mi dispiace, non posso non odiarmi. Ho deciso di spendere tanto tempo a rimpiangere questa relazione quanto ne ha speso lui a chiuderla. Ecco fatto, ho finito. Che vuoi fare? Ti lascio, mia cara. Se te ne vai, chi sarà di me? Che farò? Francamente me ne infischio. Approcci diversi rispetto all'abbandono, Nicoletta. Assolutamente. Allora noi torniamo a chiedere ai nostri ascoltatori: siete stati lasciati non solamente dalla compagnia Bip Mobile 800 24 00 24 o avete lasciato? Come sono finite le vostre storie d'amore o d'amicizia? Con una litigata, con un SMS, oppure non vi siete più fatti sentire? In linea con noi abbiamo ancora la dottoressa Schelotto. Dottoressa, ma insomma, però, chi viene lasciato viene un po' considerato vittima e ha spesso la solidarietà di amici e colleghi. Ma dobbiamo dire che anche chi lascia soffre, si misura ad esempio con il senso di colpa, così per evitarlo magari si prende tempo, si rimanda aspettando il coraggio, il momento opportuno. E dottoressa Schelotto, e così facendo si trascinano le cose. In noi un po' di spirito adolescenziale, gli adolescenti vorrebbero fare il comodo loro ma avere l'approvazione e il permesso degli adulti, E così quando noi lasciamo vorremmo lasciare, ma vorremmo anche che il lasciato fosse contento, sì. Così non abbiamo strascichi, ecco. Invece purtroppo non è così, cioè allora prendere una decisione così importante comporta inevitabilmente dubbi e sensi di colpa e l'ansia e qualche volta la paura della sofferenza dell'altro è più forte del nostro desiderio di novità. E quindi qualche volta rallenta e blocca, diventa difficile, appunto, cioè, questo spiega in qualche modo perché alcuni lasciano con un SMS, perché è più facile lasciare ragionatamente, lasciare con degli argomenti è sempre più difficile, anche perché ci si confronta con la sofferenza dell'altro e l'altro è sempre uno specchio con noi, rappresenta sempre una parte di noi. E allora di fronte a tutto questo si cerca di rimandare o di dire a se stessi ma forse non lo voglio proprio lasciare, forse non è proprio così, cioè i distacchi sono tra le cose più difficili della nostra vita. Peggio di un trasloco. Sia che si debba distaccare dalla stima verso una compagnia telefonica, sia che si debba lasciare una persona che abbiamo ritenuto importantissima per noi. Giovanni ci scrive: mia figlia 26 anni è andata a vivere da sola, sono passati 2 anni e ancora non mi sono ripreso, mi manca tanto, ma vi sembra normale? Sono malato. Allora, dottoressa Schelotto, i figli crescono, ci abbandonano, c'è quella che viene considerata un po' la sindrome da nido vuoto, è vero? Certo. Però è una cosa che noi adulti dobbiamo gestirci per conto nostro, perché è normalissimo che i figli se ne vadano, bisognerebbe preoccuparsi del contrario, cioè quando diventano grandi e non vanno via ci deve essere qualcosa che non va sia in noi che in loro, cioè c'è qualcosa che abbiamo sbagliato e li stiamo trattenendo. I figli, come diceva Gibran, sono come degli archi lanciati verso la vita, che noi possiamo solo fare scoccare la freccia, ma non possiamo seguirla. Devo dire che le mie figlie mi stanno allenando da un po', eh? Loro vanno, svolazzano, il nido vuoto. Bene, ma non ti vedo particolarmente affranta. No, assolutamente, ecco, esatto. No, loro sono contenti, siamo tutti felici. Non affranta quanto... vogliamo sentire degli ascoltatori, dai, sì, vai. Come al solito io non li vedo da qua, e allora sentiamo... Guido dalla provincia di Genova, ha avuto un distacco che ancora non abbiamo affrontato questa mattina fra le varie tipologie. O almeno non approfondito. Guido, buongiorno. Niente, avete parlato di distacchi e volevo mettere un qualcosa in più alla vostra trasmissione, cioè il parlare del distacco dovuto a motivi di lavoro, certo. Per cui una persona viene lasciata a casa, no? Viene lasciata a casa e tutte quelle persone che c'erano intorno, no? Spariscono tutta assieme. Non esistono più, non ti chiamano più, non ti chiamano, non ti cercano, non ti chiedono. E niente, questa è un'esperienza. Ma se fosse andato uno dei suoi colleghi, lei l'avrebbe fatta questo gesto, Guido? Ma io penso, non lo dico per gloriarmi oppure per vantarmi, però forse l'avrei fatto. Quindi Guido, perché penso che nel lavoro ci sia qualche cosa in più. Insomma. Certo, anch'io sono della sua stessa idea, cioè il lavoro crea poi dei legami, si instaurano dei rapporti, è un collega di lavoro ma spesso diventa anche un amico. Come allora, la povera Nicoletta che ancora spera che io mi fidanzi e lì fa la streghetta, fa tutte le sue... Ce la faremo. Guido, quindi alle persone lancio un messaggio, magari alle persone che ci stanno ascoltando, che hanno un collega che purtroppo è stato licenziato oppure è un collega che è andato in pensione, non dimenticatelo, Guido. Sì, lo faccio ben volentieri, perché le persone si devono rendere conto anche che ci sono delle persone un po' più sfortunate che magari hanno avuto dei problemi per cui devono avere proprio in quei momenti qualcosa in più dei colleghi. Grazie Guido, dottoressa Schelotto, quindi abbiamo affrontato anche questo tipo di distacco, il distacco dal lavoro, e Guido raccontava questa terribile sensazione, quella di avere un po' la terra bruciata intorno, di sparire completamente dalla vita di persone con cui hai condiviso ore e ore di scrivania. Ma diciamo che questa terribile crisi che si sta vivendo nel nostro paese fa in modo che difetti l'empatia, cioè diventa difficile condividere l'angoscia con l'altro. se uno viene licenziato e gli altri no, si crea questa mancanza di empatia, per cui si cerca di prendere le distanze da una realtà che non si vuole nemmeno sfiorare. Questa è, voglio dire, non è edificante, bisognerebbe riuscire a superare questo sentimento un po' di egoismo. Però per certi versi è comprensibile, perché è come prendere le distanze dalla possibilità che qualcosa del genere accada anche a loro. E questo credo che sia uno dei mille tributi che stiamo pagando alla crisi nella quale siamo immersi. Certo, c'è anche questa responsabilità, purtroppo. Allora continuate, lo dico ai nostri ascoltatori, ad interagire con noi per raccontarci il distacco più traumatico che avete subito o che avete anche fatto subire, perché certo. No, perché non è che lo riceviamo solo, ma qualche volta ne siamo anche diretti responsabili. E oltre a questo ci confronteremo ancora con la dottoressa Gianna Schelotto, ma continuiamo anche ad affrontare la questione di Bip Mobile, che è un altro bel distacco che ha fatto veramente andare un po' la pulce al naso a molti sottoscrittori. Si chiama mosca, non la pulce va nell'orecchio, la hai mosca ragione. Va al naso. E vabbè, guarda, io proprio veramente con proverbi, modi di dire, queste cose qua, devo fare un po' di lezioni da te, perché me li sono scordati tutti. Detto questo, avvocato Luongo, molte domande per lei, Movimento Difesa del Cittadino, ci sente? È ancora con noi? Assolutamente sì. Eccoci qua, andiamo a sentire allora in che situazione si trovano Giorgio da Torino e Maurizio da Vicenza con la mia pulce al naso. Giorgio, buongiorno. Buongiorno. Sì, buongiorno, vi faccio i complimenti per tutte le vostre trasmissioni. Bravo. Grazie molte, bravo Giorgio, ci dica. Mia esperienza con la Bip Mobile è stato giugno-luglio l'anno scorso. Questa azienda ha sempre avuto problemi. È stato difficile trovare un negozio che abbia avuto una schedina proprio in casa, tre giorni di fila. Poi non sono riusciti ad abilitarla per problemi informatici. Poi una volta abilitata non sono riuscita a caricare il credito con la carta di credito direttamente sul loro sito. Mi sono recato presso il negozio. Sì. E nemmeno loro non sono riusciti a fare questa ricarica. E quindi Giorgio, lei che ha fatto? Li ha abbandonati lì dopo questi due mesi problematici? Istantaneamente. Oppure... Giorgio, appunto. Istantaneamente. Perché insomma il mercato per fortuna ce le dà questa opportunità. Lei ai primi segnali ha detto, sai che c'è, tanti saluti. Però stavo pensando, avvocato Luongo, poi sentiamo anche Maurizio da Vicenza, che nonostante tutti questi problemi, questi signori 220.000 abbonati li hanno trovati, li hanno pizzicati. Cioè, trovare un loro negozio è difficile, ma loro gli utenti li hanno trovati come? Ma guardi, fino a una quindicina d'anni fa nessuno avrebbe pensato che gli operatori low cost nel volo come Ryanair e EasyJet avrebbero potuto avere questo esatto. grande successo. Oltretutto avevano delle offerte imbattibili. È stato lo stesso meccanismo, l'offerta era assolutamente allettante, si trattava di uno dei primi e dei maggiori operatori low cost. Siamo in un mercato libero molto concorrenziale, quello della telefonia mobile, uno dei pochi in Italia su cui i consumatori hanno un gran vantaggio dal punto di vista economico, dalle tariffe. Certo. Quindi quello che è accaduto lungo. Però ci dà anche il senso un po' dei problemi che si possono avere con la concorrenza. Ma avvocato Luongo, alla fine, no? La morale insegna che ci si può fidare anche dei piccoli nonostante l'esperienza della Bip Mobile. Comunque qualche opportunità anche noi come consumatori dobbiamo darla, questi nuovi soggetti che si presentano sul mercato, oppure comunque essere sempre dubbiosi. Gli operatori virtuali stanno riscuotendo grande successo. Tenga conto che milioni e milioni di italiani stanno abbandonando il telefono mobile, passando al cellulare, non solo per la voce ma soprattutto per i dati, siamo sempre più interconnessi. Il problema è uno solo: non basta la trasparenza contrattuale. Nel nostro paese abbiamo la necessità di avere autorità indipendenti che vigilino sulla correttezza dell'operato di questi operatori. Io consumatore mi posso fidare di tutti nel momento in cui so che c'è un controllore. Nella storia di Bip Mobile è da quasi un anno che va avanti un problema legato alla solvibilità sia di Bip Mobile che dell'Enabler, quello che permette di svolgere il servizio, e gli utenti non sono stati adeguatamente. Ecco qua, il problema è questo. L'ultima domanda la segniamo a Maurizio da Vicenza, poi chiudiamo questa parentesi appunto di Bip Mobile, se sei d'accordo Nicoletta, sì, e così poi andiamo avanti con gli altri temi. Questo abbandono, ne parliamo degli altri abbandoni. Perché abbiamo ancora in sospeso un'ultima questione da affrontare, ce l'ha, come dico sempre io, pone su un piatto d'argento Maurizio da Vicenza. Maurizio, rapidissimo, grazie molte e buon anno. Ok, allora, buongiorno a tutti e complimenti corsi avvocati che avete. Grazie. Volevo solo domandare come posso fare a recuperare i miei soldi che avevo, che sono bene o male 90 euro, non sono moltissimi. No, no, però di questi periodi euro. Ci si fa la spesa per diversi giorni, Maurizio. La ringrazio. Allora, abbiamo detto prima che si può fare la portabilità ad un altro operatore e si trasferisce il credito residuo, avvocato Luongo, e qui siamo d'accordo e tutti contenti che tutto sommato, come dire, nell'idea questi soldi non sono persi. Ma se la società BIP è in liquidazione, chi ce li dà e dove li prende questi soldi da restituire agli vecchi abbonati a questo punto? Su questo non dovrebbero esserci problemi perché parliamo di traffico, non di denaro contante. Mm-hmm. Il problema è che su questa cosa dovrà vigilare necessariamente l'autorità, ma siamo ottimisti, anzi speriamo che l'autority in breaking news ci possa dare delle novità, altrimenti ce le darà nelle prossime ore. Sicuramente l'autorità dovrà convocare a questo punto anche le associazioni dei consumatori, gli utenti devono essere informati in tempo reale, lo possiamo fare, lo stiamo facendo anche grazie ai social network. Il credito residuo verrà trasferito, però voglio ricordare a tutti, al netto delle promozioni, BIP Mobile ha fatto delle promozioni che garantivano un traffico ulteriore di 50 euro se si portava esatto, un amico. Esatto, quelli, quei 50 virtuali non credo che possano essere recuperati. Queste promozioni non possono essere recuperate, pertanto devono essere richieste a BIP Mobile. Benissimo. Rispettiamo le iniziative di tutti. Sulla class action vogliamo lanciare, come Movimento Difesa del Cittadino, una certa attenzione. Esatto. Attendiamo che si faccia chiarezza, gli operatori coinvolti sono tanti, i soggetti sono tanti, attendiamo che sia chiara la situazione. Grazie, grazie avvocato Luongo, devo salutarla, ci risentiremo per questo tema. Buona giornata. Buona giornata. A presto. Senti, a proposito di abbandoni, fa ancora discutere a distanza di giorni la storia dei due fratellini Manuel e Nicole, ti ricordi, smarriti a Capodanno? Sarà molto strana. In un bosco sul Monte Livata, ritrovati dopo una notte passata nel bosco dai soccorritori, sani e salvi. Se questa fosse una favola, finirebbe qui, con i bambini che tornano a casa ad abbracciare i genitori per continuare a vivere felici e contenti nella loro casetta accogliente. Ma nella realtà la storia, Deborah, non è finita. Finirà forse in qualche aula di tribunale, o la sensazione, non lo so, ma chissà. Se ne parla in TV, sui giornali, anche tra colleghi, e a far discutere è la decisione della mamma di lasciare i bimbetti nel bosco per andare a chiedere aiuto. Tu che cosa avresti fatto, Deborah? Li avresti lasciati? Tu sai che io non ho figli, ho due nipoti, ma non credo proprio che li avrei lasciati, piuttosto sarei morta di freddo. Cioè, non riesco proprio a concepire il pensiero di mollarli lì, magari anche in lacrime. Cioè, come fai? Sono troppo piccoli. Non lo so, infatti, però è una domanda difficile. Credo anche che nell'emergenza guidare sia l'istinto, che come in questo caso, nel caso dei due bimbetti, è stato un ottimo consigliere. Sì. E in alcuni casi evidentemente dà anche quella forza e quel coraggio che, no, razionalmente si pensa magari di non avere. Lo chiediamo alla dottoressa Schelotto. Dottoressa? Eh sì, è difficilissimo, come dire, stabilire se fosse giusto oppure no in quella situazione. Certo, non sono state calcolate le conseguenze psicologiche che quell'abbandono poteva avere per quei bambini. Cioè, passare una notte nel bosco da soli, come nei peggiori momenti delle favole più angoscianti, credo che abbia lasciato segni fortissimi nei bambini. È possibile che la mamma gli abbia raccontato qualcosa di così rassicurante da permettergli di affrontare una prova così terribile da soli? Certo, io credo che ciascuno di noi si sia identificato in quei bambini e si sia visto smarrito nel bosco come nelle favole peggiori, nelle favole più inquietanti, e credo che siano le conseguenze psicologiche soprattutto a dover far pensare e a dover far aiutare in futuro questi bambini. Che hanno affrontato evidentemente la situazione quasi come se fosse un gioco, dottoressa Schelotto, magari la loro mamma è riuscita... Probabilmente c'è stata l'abilità della mamma di dargli delle spiegazioni convincenti, di aiutarli a pensare che non ci fosse pericolo, però certo la notte è lunga, il freddo, la solitudine, sono tutti elementi esterni che devono aver inciso pesantemente su questi bambini. E io penso, abbiamo detto che è difficile essere lasciati, ma è difficile anche lasciare, che questa decisione sia stata molto dolorosa anche per la mamma. Certo, non c'è dubbio, però appunto le si sarà posto il problema che continuare con, forse la radice di tutto sta nell'imprudenza di essersi allontanata così tanto con i bambini, quindi diciamo è a monte un'eventuale responsabilità della mamma che si è spinta così avanti senza calcolare che poi c'era di mezzo il ritorno e che poi c'era di mezzo, certo, il tempo per trovare i soccorsi. E a proposito di prudenza, imprudenza, soccorsi, in linea abbiamo il piacere di avere Leonardo Cerri, consigliere nazionale dell'Associazione Nazionale Disaster Manager ed ex direttore della Protezione Civile del Comune di Milano. Buongiorno. Buongiorno e buon anno. Buongiorno a tutti, buon anno. Cosa bisognerebbe fare in un caso come questo di emergenza, quando non ci, ad esempio, ci sono dei bambini o delle persone anziane? Succede, no? Può capitare un incidente di questo tipo. Che cosa si fa? Si mette in uno stato di protezione la persona più fragile, si va a cercare aiuto, oppure la mamma avrebbe dovuto rimanere lì come una sorta di coperta a chioccia a protezione dei bambini? Ma guardi, è difficile perché bisogna capire il caso che si va a trattare, non è uguale ad altre situazioni che si possono verificare. Bisogna capire anche l'istinto umano in quel momento, che cosa fa partire nell'essere umano, no? L'istinto di protezione è rivolto ai bambini, rivolto agli anziani o comunque anche a degli adulti. Io ho vissuto tante situazioni di emergenza e devo dire che in tante situazioni il comportamento non è mai uguale, non c'è mai una sorta, diciamo, di canovaccio, sì, al quale attenersi. Però ecco, noi forse siamo un pochettino meno abituati come popolo all'autoprotezione, e se invece nella vita proprio di tutti i giorni imparassimo di più a fare autoprotezione, ecco che probabilmente il nostro cervello sarebbe più allenato. Mi faccia un esempio di autoprotezione, così ci facciamo un piccolo allenamento quotidiano, ad esempio in 30 secondi. Prendiamo un sentiero e smarriamo un po' il senso d'orientamento, per esempio in un caso in cui dice di essersi trovata la mamma di questi di bimbi, mamma e nonna. Ecco, ma magari, come diceva la dottoressa precedentemente, prima di allontanarsi e eventualmente allontanarsi così tanto, avere la certezza di avere un cellulare carico, di una compagnia affidabile, direi anche. Beh, esattamente, poi anche di avere magari qualche strumento alternativo, perché in montagna non è mica così scontato che il cellulare prenda. Certo. Quindi avere altre situazioni, oppure anche molto più semplicemente dire la zona in cui si intende andare a fare il giro con, in questo caso, con bambini o comunque anche con gli amici. Comunque, posso dire tutto bene quel che finisce bene, esatto, meno male. Chiudiamo così, senza giudicare, per carità. Raccogliamo anche i consigli della dottoressa Schelotto, che è un modo, anche quando i bambini affrontano un incidente di questo tipo, è opportuno poi, no, aiutarli a superare, a metabolizzare un po' questo incidente, dottoressa. Ho sì, afferrato questo, bene, abbiamo proprio sì, 30 certo, secondi. Certo, è molto importante perché l'avventura che hanno, cioè si può trasformare nei bambini questa avventura in una sorta di una forma di eroismo. Il papà mi pare che abbia detto sono stati due eroi questi bambini. Sì. Allora cercare di far prevalere l'idea che sono stati bravi, sono stati forti, che nulla li può più minacciare, forse li può aiutare a superare il trauma di quella notte terribile. Grazie alla dottoressa Schelotto. Grazie a Leonardo Cerri. Sì, ci sente. Filippa Oreggi. Posso solo 3 secondi per leggere un messaggio. Questo ascoltatore che è ancora traumatizzato dal fatto che 2 anni fa la sua compagna l'ha lasciato. Lui ancora telefona, ma non risponde questa donna. Risponde il padre che lo minaccia. Antonio, cosa faccio? Antonio, apra internet, si organizzi un bel viaggio di fronte ad una persona che non la vuole più. Ce ne sono altre 50 che la vogliono. Vada Scappi. Via e si salvi. A presto, a domani. A domani.